direi che noi ci affidiamo al meteorologo di Radio Popolare, che ringraziamo per il suo ottimismo, e perché no, arriverà anche da noi un raggio di sole. Intanto sono arrivate le 7:47 minuti e il nostro last minute, chiamiamolo così, letterario, che anticipa il voltiamo pagina, già presente mattiniera, anzi super mattiniera, Silvia Albertazzi. Buongiorno Silvia. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti. Ringraziamo anche il super mattiniero Stefano, che ci saluterà da remoto. Eccolo qui, sembra mano degli Adams quando la vedo arrivare dalla parte dello studio diretta. Io mi sento un po' Lerch chiamato, okay? Tu puoi essere Mortisia, sì. Hai capito? Visto che bella formazione. Gli Adams del voltiamo pagina vi accolgano a colazione, ricordando che i due libri che presenteremo ufficialmente dalle 8:05 in avanti saranno in premio per voi al 333-180-9494. Perché questa edizione straordinaria, Silvia? Perché vogliamo presentare un terzo libro e intervistare l'autore. Si tratta del libro Al di là del mare, una storia italiana tra due sponde del Mediterraneo, di Lorenzo Bonazzi, Affinità Elettive editore. Lorenzo Bonazzi è qui con noi, anche lui bel mattiniero, sì, quindi sì, buongiorno, sì. Lorenzo. Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno. Grazie per aver accolto il nostro invito. Ora lascio la parola a Silvia, avrai qualche intrusione mia, quindi attenzione, le mie domande sono sempre a sorpresa. Vai Silvia. Sono prontissimo e preoccupato. Allora, intanto due parole sul libro. Al di là del mare, come dice il sottotitolo, è una storia italiana tra due sponde del Mediterraneo. In effetti Lorenzo racconta in questo libro la storia di sua nonna, che era una signora che ha passato la gran parte della sua vita in Tunisia, nata però da genitori italiani e italianissima, cioè si sentiva estremamente italiana malgrado appunto abbia trascorso tutta la sua vita in Tunisia. E la storia della nonna serve a Lorenzo per raccontarci di questa comunità di italiani di Tunisia di cui noi non sapevamo nulla, sinceramente. Ecco, io volevo chiederti, prima di tutto, il libro non è un romanzo, cioè tu come hai lavorato? Hai trascritto quello che ti diceva la nonna o ti sei affidato a dei ricordi? Allora, guarda, ho fatto entrambe le cose. Diciamo che in primis mi sono affidato ai ricordi di una vita, perché in pratica questo libro ha una genesi di 40 anni, che poi è la mia età. Io mi sono affidato. Tu, scusa, in fasce stavi già scrivendo questo libro. Certo. Esattamente, quando ero piccolo io già ero lì che scrivevo, però insomma mi ricordavo dei tanti ricordi della nonna, delle zie, perché tutta la mia famiglia da parte materna è di origine italo-tunisina, quindi mi sono ricordato delle storie che loro mi raccontavano. Dei miei ricordi, perché io comunque fino ai 25 anni ho passato tutte le mie estati in Tunisia, quindi c'è anche qualcosa un po' di autobiografico nel libro, e soprattutto poi dopo ho intervistato mia nonna pazientemente per quasi un anno, andavo da lei un po' di volte a settimana e insieme ricordavamo, io le facevo delle domande, la facevo andare a ruota libera, e quindi ho ricomposto un po' tutto il puzzle della sua vita, della vita della mia famiglia e di tutte le persone e gli amici che hanno gravitato in questa vita tunisina insieme a lei. Tu quindi hai scelto di in qualche modo trascrivere la nonna fedelmente, non di romanzare. Perché? Esatto, ma perché io volevo rimanere soprattutto molto fedele alla sua storia e a quello che lei raccontava, quello che lei ha vissuto, perché è una storia già piuttosto particolare, piuttosto carica di odori, colori, sapori che non conosciamo, quindi romanzarla ulteriormente mi sembrava, diciamo, andare eccessivo. Al di fuori di, esatto, eccessivo, andare al di fuori di quello che era poi dopo lo steccato della sua vita, perciò io ho voluto riscrivere quello che lei diceva e magari aggiungere qualche mio ricordo personale, qualche ricordo di mia mamma, delle mie zie, che però sono sempre comunque ricordi molto fedeli alla storia stessa. Beh, un grande scrittore, un filosofo, Francesco Permugnan, che io ammiro molto, dice sempre a tale proposito: le emozioni e i ricordi bisogna guardarli e aspettare un po' di tempo da lontano, perché altrimenti le lacrime potrebbero pasticciare il foglio e l'inchiostro sul quale stiamo stendendo questa storia. Tu sei riuscito a mantenere questa intellettuale, non voglio dire freddezza, oppure sei caduto a volte in tutto ciò nell'aspetto emotivo? Di un bellissimo ricordo. Esatto, devo dire che no, non sono una macchina, quindi sono caduto certamente anche in, insomma, in momenti un po' di ricordo e di, insomma, quando si racconta comunque una vita di una persona a te cara, per forza si cade un po' in queste trappole. Infatti però ho tentato di rimanere anche un po', di dare uno sguardo comunque un po' esterno, e infatti poi dopo, come dicevo, questo libro è poi dopo la genesi della mia vita, quindi ho iniziato a scriverlo poi verso i 38-40 anni, perciò ho tentato di far decantare la storia il più possibile anche proprio all'interno dei miei ricordi. Quindi sì, ho tentato di mantenere una buona distanza, però ovviamente è una storia che fa parte di me, quindi insomma un po' di sentimentalismo c'è, gioco forte. Ecco, volevo aggiungere che una cosa molto interessante è che alla fine c'è una corposa appendice sulla storia della comunità italiana in Tunisia, quindi direi che questa parte è estremamente documentaristica e per niente sentimentale. Come ti sei documentato appunto per l'appendice, per questa parte storica? Sì, allora guarda, io sono anche un appassionato di storia, quindi è una cosa che mi piace molto fare. Io mi sono documentato sia con, devo dirti la verità, i pochi libri che ci sono in lingua italiana legati alla storia della Tunisia e degli italiani di Tunisia. Ho letto un po' di manualistica anche in francese, perché gli studi in Francia sono più corposi, e poi dopo quello che sono riuscito anche a reperire online da siti fidati, quindi proprio di ricostruzione storica, e anche un po' dai ricordi sempre che sono riuscito a trovare in quello che mi diceva anche mia nonna, diciamo mia mamma e le mie famiglie. Però soprattutto libri tipo storico, nel tempo sono riuscito a ricostruire anche questa storia. Sono anche andato a ricercare all'interno anche di siti del governo italiano, perché c'è anche una parte ovviamente legata al fascismo, alla guerra, quindi ho tentato di fare una ricostruzione comunque non, diciamo, pesante, non accademica, sì, piuttosto dubbio. Fluida. Uh-huh. Anche un po' anche da qualche diario, ho trovato anche dei diari ad esempio di combattenti italiani negli anni 40, nel 45, che descrivevano la Tunisia dell'epoca, quindi sia un po' di manualistica storica che anche proprio il libro di tipo accademico. Uh-huh. Hai tenuto una presentazione, se non sbaglio, alla libreria Ubic con la quale noi collaboriamo, confermi? Esatto, confermo, sì, l'ho tenuta a inizio mese. Posso dire una cosa? È la sì. Presentazione in cui io ho visto più persone, non avevo mai visto una presentazione di un libro. Applauso! Sì, fatto. Bene, bene. Hai una grande fan base, si dice, di questo tempo, e la aumenteremo con il Voltiamo Pagina di Radio Città Fujiko, e aggiungiamo anche se hai altre presentazioni in programma. Allora, sì, guarda, il 16 di aprile lo presenterò alla biblioteca Cabral. Ah, bello. Sì. Al Cabral, esatto. E poi dopo invece il 27, sempre di aprile, sarò alla libreria Griot a Roma, invece, per parlare sempre del libro e per presentarlo. Questi sono i due prossimi appuntamenti. Chi te lo presenta al Cabral? A Cabral lo presenterà Marinette Pendola, che è una scrittrice anche lei di origine italo-tunisina, ha scritto anche lei dei libri sulla storia degli italiani di Tunisi, quindi dialogheremo insieme. Anche lei proprio è una persona che conosce molto bene questa storia di questa comunità, ancora un po' sconosciuta, sta venendo fuori negli ultimi anni, e quindi dialogheremo insieme per parlare del libro. Puoi restare un po' in diretta con noi, che metto giusto uno stacchettino musicale prima della pubblicità e di salutarti, e poi torniamo in diretta per le ultime informazioni al di là del mare di Lorenzo Bonazzi. Puoi rimanere un attimino? Molto volentieri, certamente. When I was young, I just didn't care. But now I'm old, and all that's left of my young years. This is all album and all that's to it. My pretty baby, I know it's funny, but I love those photographs. They always give me lots of laughs and happy surprise. All of my dreams are in that album. All of the girls that I ever had. First time in love, and later on with my best friend. All of those people you'll find in my albums. Married a baby, I know it's funny, but I love those photographs. They always give me lots of laughs and happy surprise. Hai già ricevuto anche un messaggio, Lorenzo, per cui ringraziamo Roberto che insomma ammira questa storia di vita al di là del mare. Sei ancora in diretta con noi, Lorenzo? Sono ancora qui, certo. Bene, ti abbiamo tenuto distante per un pochettino, ma sempre vicino e in frequenza collegato con il 103.1, diretta telefonica che anticipa l'ufficiale Voltiamo Pagina nel mercoledì di Radio Città Fusico. Per avere il tuo lavoro, per trovare la pubblicazione che abbiamo appena presentato? È disponibile online in tutti gli store online, sul sito della casa editrice Affinità Elettive o anche nelle librerie, si può andare a richiedere e in pochi giorni arriva. Posso dire una cosa aneddotica? Quando c'è alla presentazione della Ubic hanno esaurito le cuffie. Vedi mo, questo è un altro, un sacco di gente è rimasta senza. È un altro punto sul quale. Però diceva che l'avrebbero ripreso, per cui penso che alla Ubic ce l'abbiano. Ecco, e sì, Ubic sì, collabora con noi, per cui ne siamo molto contenti e contenti di aver fatto questa conversazione con Lorenzo Bonazzi al di là del mare. E ti aspettiamo ovviamente in caso di altri appuntamenti. Sai che il Voltiamo Pagina c'è. Grazie a voi, grazie della possibilità di questa bella chiacchierata. Ascolta Lorenzo, se non vado errato tu sei stato anche atleta, allenato da Stefano, dico beh Silvia sta ridendo, quindi è un sì questo. Assolutamente sì, e devo dire che Stefano è stato l'unico allenatore che è riuscito a farci vincere un campionato, no, che mi faceva giocare sempre titolare, quindi per me è veramente è il mister del mio cuore Stefano. Ho capito, devo è dire, qui che non so se sta ringraziando o se è emozionato, e comunque ti dai, saluta. È emozionato. È la verità. Coach guarda. Of the Year, Stefano Calanchi, grande. Facciamo un mood groove. grazie. Ciao Lorenzo. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Co-conduzione SMS, WhatsApp e Telegram a breve per avere la possibilità per le due pubblicazioni presentate al Voltiamo Pagina odierno e arricchire la vostra biblioteca. Stefano, intanto non abbiamo detto di quale disciplina era coach. Calcio. No, aspetta un attimo. Con Bonazzi era coach di calcio, okay. Ma lui no, in tutta la sua vita invece è stato coach di hockey su prato. Però è un coach. È un coach. Like rushing waters flow, they carry me along.